che adesso la tecnologia. Ci pensava, mo che è stato l'anniversario dell'allunaggio, no? Che alla fine mo hanno tipo le società talmente con cambi talmente repetiti che non ne stupimo niente. Troppo, sì. E io invece pensavo, cioè, che adesso è stato quando hanno fatto l'allunaggio, pure per padri, che tenia 10 anni, no? O tenia 7-8 anni, che si indiano che... No, è vero. Cioè, adesso è stata una cosa, ormai, mo, magari ci sono scoperte, pure più, tra virgolette, più rivoluzionarie, però è una cosa che... Io so, questa considerazione, sai che la faccio spesso quando guardo i film, video, musicali degli anni 80, con gli effetti che chissà hanno che paria, no, tu magari mo te fai la risata. I cetani, i giaroni, invece tanno era la faccia che si triplicava, oppure che ne so, sembrano tutte cose strane. Sentieri, percorsi tematici per esplorare l'universo multiculturale della Campania. Allora, lo scopo di questa associazione appunto è quella di promuovere e soprattutto conservare quelle che sono le tradizioni e la cultura italo-venezuelana, che appunto parliamo di una storia che qui in Moio della Cittadella c'è una storia ben solida, perché noi abbiamo, diciamo, da tempo e da sempre comunque contatti con quello che è il Venezuela, e c'è stato un grande flusso migratorio nel Venezuela, quindi mi sembra doveroso, e io lo dico sempre ogni qualvolta mi trovo a parlare anche con i membri, anche al pubblico, che sembra che sia un dovere, anzi è un dovere morale per noi conservare le tradizioni e la cultura, e soprattutto valorizzare quello che è stata la figura dell'emigrante che ha dato tanto a questo paese. Ovviamente non si ferma qui lo scopo dell'associazione, perché anche da un'altra parte l'obiettivo è quello di realizzare delle azioni e una programmazione ben mirata al fine di offrire supporto, assistenza e coadiuvare qualunque cosa possa essere utile sia agli italo-venezuelani presenti qui nel territorio, sia ai nostri compaesani presenti in Venezuela. L'associazione latinoamericana in Italia si cerca di aiutare il Venezuela in questo momento di crisi facendo una raccolta di medicinali per inviarla in Venezuela in questo momento critico. Praticamente in Venezuela manca tutto, manca dal medicinale per la pressione, o dal diabetico che non si può curare, poi ai malati di cancro e i bambini che stanno morendo per mancanze medicinali, oppure perché nascono e non ci sono le incubatrici, oppure i presidi sanitari adatti per curarli. C'è una rete nazionale, una rete europea e una rete mondiale. Perché praticamente questa associazione qua, di cui il presidente è questo dottor Edoardo Lombruni di Sulmona, alla sede infatti dell'ALI a Sulmona, lui è presidente dell'ALI e fa parte della struttura internazionale che collabora con, si chiama il Plan di Aiuto Umanitaria, che ha sede negli Stati Uniti, che è quella che raccoglie poi tutte le associazioni che si occupano nel raccogliere presidi medicinali per portarli in Venezuela. Poi questa struttura qua poi è collegata in Venezuela con strutture religiose, con nazioni religiose affini che si occupano proprio di questo qua. Ci sono più di 20-28 centri di raccolta in tutta Italia. Cioè quasi una regione, quindi vengono raccolti tantissimi medicinali, poi anche le grandi fondazioni religiose italiane. Quindi è un'associazione di associazioni. No, io sono scritto proprio come membro di questa dell'associazione, quella LALI, latinoamericana in Italia, il centro di raccolta a Sala Consilina, praticamente. E là portiamo la roba che riusciamo a raccogliere, medicinali, presidi, e le portiamo là. Poi loro scatolano. È tutto ovviamente autofinanziato, nel senso che il supporto viene autofinanziato con quello che tu riesci a raccogliere con le serate, con le donazioni, roba varia. E poi c'è quest'altra ragazza che invece ha scritto. Questa qua invece è quella che ha scritto la tesi che parlavo con loro, il Cilento in Venezuela, che si è occupato di tutto quello che è il fenomeno dell'immigrazione in Venezuela. Il Cilento in Venezuela, quindi cilentani che sono. Cilentani è stato, esatto, è il fenomeno che ha coinvolto comunque tutto il Cilento. adesso è nato dal fatto che anche mio nonno era un emigrante, è stato un emigrante, per cui ho avuto diciamo un forte legame con il Venezuela. Poi ho una, diciamo, sono molto vicina al Cilento anche geograficamente e a Moio della Civitella, per cui ho saputo che c'è stato questo forte fenomeno da Moio verso il Venezuela e diciamo quello che si è creato qui a Moio mi è interessato dal punto di vista proprio storico, perché c'è stata una fortissima catena migratoria a partire da qui verso il Venezuela, per cui parenti, amici hanno richiamato persone e quello che si è creato ora è una comunità, diciamo, molto legata alle tradizioni del Venezuela e alla cultura del Venezuela, per cui il mio interesse, diciamo, il mio studio si è concentrato proprio su questo, sul legame che c'è tra il Venezuela e Moio della Civitella. Allora, dal 1 gennaio 2010 fino alla data odierna, quindi parliamo al 25 settembre 2018, l'ultimo dato, quasi un anno fa, risultano cancellate dall'AIRER per rimpatrio 118 persone, di cui famiglie numero 65. Quindi solo in quel frangente là parliamo di 118 persone rientrate e ci siamo fermati a luglio del 2018. Considerando che da luglio del 2018 ad oggi il fenomeno gli eventi sono precipitati, quindi è un fenomeno rilevante ed è anche un fenomeno sociale comunque da tenere presente, perché comunque ha tutta una serie di ripercussioni. Quanti abitanti fanno? 1900 e rotti, era un dato, ti parlo di 2-3 anni fa, penso che sicuramente non ho aumentato. Cioè è aumentato perché sono arrivate 200 persone in più. Sì, un po' che sicuramente la natalità è aumentata, quindi comunque c'è stata una serie di fattori che ha aumentato la popolazione. Caso unico, trend positivo. È un trend, sì, uno dei pochi paesi insieme a noi che comunque è un trend positivo. Sì, sì, perché nell'entroterra la maggior parte sono affetti dal fenomeno del spopolamento. Per esempio quest'anno c'è un boom di iscrizioni all'asilo. Anche questo, mi dicevano che mai come quest'anno mi sa che c'erano 30 o 32 sì, iscritti. Più di 30 iscritti. Cosa che non si verificava da una vita. Dice mentre che... per esempio a Gioi hanno chiuso, esatto, cioè il comune appena chiude l'asilo. Perché la maggior parte erano, sono tutti magari persone che non sono rientrate, comunque hanno i figli piccoli. E comunque automaticamente viene alla ribalta il discorso che comunque che bisogna creare, cioè, un discorso di integrazione, perché comunque con persone che sono italiane, persone che sono italiane, che comunque hanno vissuto là, comunque soprattutto chi, i ragazzi piccoli che hanno iniziato la scuola là, che si ritrovano ribaltati in una nuova realtà, un nuovo contesto, la lingua e tutto. Cioè è una cosa da seguire, perché ti ripeto, anche perché poi uno non è che lascia il paese come una scelta. Allora, cioè, la maggior parte sono stati obbligati a lasciare, obbligati da fattori economici, da fattori sociali, molti se ne sono venuti, cioè io ho sentito casi di gente che se ne è venuta senza niente, cioè perché praticamente gli è stato tolto il tutto, non è che loro hanno deciso così. È stato tolto il tutto e dice ok, te ne puoi andare. Gente che si è vista espropriata proprietà, gente che ha perso il lavoro, gente professionisti che hanno perso il lavoro, che magari lavoravano per gli enti statali, e hanno perso il lavoro perché magari avevano un'ideologia diversa da quella dettata e si sono ritrovati in mezzo alla strada. Oggi sono le stesse persone che sono rientrate da professionisti là, purtroppo qua cercano di adeguarsi e adattarsi in qualche modo. Cioè fin quando il ragazzo dice ok, tu inizi, hai prospettive, ti puoi comunque creare un futuro, però metti la fascia di età 45-60, ce ne sono, quindi famiglia, come fascia d'età, magari padri di famiglia, quindi non è facile, che già di per sé qua è difficile, sì, diciamo, sì, trovare diciamo una nuova, cioè, vita lavorativa già con l'età, figurati chi viene da fuori. Sì, praticamente chi all'inizio è andato anche partendo e contribuendo alla crescita di un paese. Certamente, sì. No, che era in sì, boom, ma aveva... si iniziò... Allora. Poi chi si è trovato qua il discorso e messo era anche che alle si, corde, si, la cosa era di... si è trovato proprio in quasi di essere rinfacciato, di essere lo straniero che è venuto ad arricchire, quando siamo tornati, ad arricchirsi. Sì. Quando siamo tornati, sì, ed è... Ciao Camilla, buonasera. Buonasera. E c'è una famosissimo alla vostra cantautore venezuelano di origine bellarese, che è Franco De Vita, che ha fatto una canzone che si chiama Estranjero, e la canzone in effetti dice: uno straniero, un estranjero nunca tenderà patria. Ma non è nel Nemo profeta in patria, cioè uno straniero non avrà mai patria perché non troverà mai una localizzazione definita nel momento in, è come se ci fosse proprio un karma da scontare di chi lascia la sua terra per altre terre o per terre lontane, non troverà mai più la terra che ha lasciato. In poche parole è questo. Secondo me è una sorta di bestemmia, un anatema, una fatta, come dicono i miei... Chi te l'ha fatto fa, chi te l'ha fatto fa, chi te l'ha fatto fa, via l'America. Chi te l'ha fatto fa, chi te l'ha fatto fa, chi te l'ha fatto fa, via l'America. Abbiamo sollevato l'economia pellarese, se non altro demograficamente, perché in effetti chi arriva adesso da là non arriva come noi arrivavamo, senza arte né parte. La media delle persone che arrivano adesso qua è una famiglia con una media di 2 figli, madre e padre con una media di 40-45 anni, entrambi professionisti, perché laureatisi in Venezuela, perché figli appunto dell'immigrante che ha fatto tutto il possibile affinché suo figlio non facesse la stessa vita che ha fatto il padre di contadino, e quindi si ritrovano qua a 40-45 anni con una laurea entrambi, con dei posti fissi che avevano là, con dei figli che andavano alla scuola privata, in una realtà come Pellare, che per carità li abbraccia e li vuole come figli, perché in effetti a Pellare è cambiata molto la mentalità, ma già 20-30 anni fa sarebbero stati visti anche qua come stranieri. Sì. Qua ci sono state delle lotte intestinali tra pellaresi e nuovi arrivi del Venezuela. No. Poi venivamo... Quando io arrivai mi chiamavano Zulu, nell'anni 90. Negli anni 85-86, e quindi non c'era un'integrazione bella come oggi. Oggi Pellare è migliorato tanto. Pellare è uno dei paesi, insieme a Marina di Camerota, che grazie a questa immigrazione si può dire che è tra i paesi più emancipati del Cilento. Pellare e Moia, proprio per questo intercambio culturale. Noi ci portavamo nella valigia di nascosto il rum pampero e lo cacciavamo la mattina di San Bartolomeo a Santa Caterina per giocare a domino tra i venezuelani. Gagliardi, proveniente da Montesano sulla Marcellana, è uno dei primi cilentani che arriva in Venezuela e ha la fortuna di fare fortuna. Ha la fortuna di fare fortuna e ha la fortuna di fare fortuna anche grazie a degli amici pellaresi che si sono conosciuti là, non si conoscevano qua. Allora si partiva da Napoli, nella nave Sorrento, nella nave Italicus, negli anni 30. 40, si facevano 2 mesi di nave, c'era qualcuno che già iniziava a lavorare sulla nave, come mozzo, come cameriere, come lavapiatti, come, e si pagava così il viaggio. C'era invece chi il viaggio l'aveva pagato il genitore, qua c'era invece chi invece il viaggio se l'era fatto come debito. Tu pensa che davano crediti a fondo perduto, tanto sapevano che appena arrivavi in Venezuela un paio di mesi avevi pagato il biglietto. Così grande era la Venezuela, cioè era proprio la fortuna della fortuna. Dici, senti, ti voglio dare 100.000 lire. E come me fai? Sto andando in Venezuela. Non ti preoccupare, 200.000 a tassi bassi. Perché tanto saccio che a me è dai. Gagliardi, il nome precisamente non me lo ricordo, Filippo Gagliardi, il capostipite dei Gagliardi, che poi ci sono stati diversi Gagliardi ovviamente di generazione proveniente sempre dalla stessa famiglia, si trova in Venezuela negli anni 20, qualche decennio prima degli anni 50, perché una prima migrazione di Pellaresi in Venezuela arriva negli anni, alla fine degli anni 30, 38, 30, 39, quando già qua inizia il periodo del ventennio, no? Partono, qualcuno è andato in Argentina, qualcuno era già andato in America nel 1900, ma ancora l'America era un paese duro, non era l'America di oggi e non era il Venezuela degli anni 50. Quindi chi immigrò negli anni 900 in America ha fatto una vita dura almeno per 20 anni. Prima di diventare poi un americano in America, insomma, no? Non fu così sviluppata come il Venezuela negli anni 50, 40, 50, 60, come l'italiano che arrivò in America negli anni 900. Chi arrivava in America negli anni 900 arrivava in America come se si poteva trovare a emigrare al nord Italia, solo che la fortuna era che l'America era grande, l'America era piena di potenzialità ed era piena di emigranti di altri paesi. Loro là si sono dovuti difendere prima dagli altri emigranti, cioè una giungla. Loro arrivano a New York come se fossero arrivati in una giungla, hanno fatto la guerra tra poveri, si sono uccisi tra di loro e poi chi è riuscito è andato avanti. Mentre in Venezuela no, in Venezuela quando arrivano negli anni 50 è già tutto bello e pronto e qualcuno che arrivava da una zona così repressa come l'Italia, ma che aveva avuto un'esperienza di agricoltore, un'esperienza di artigiano, un'esperienza di commerciante, e se l'ha mangiata, se l'ha mangiata, se l'ha mangiata. Io ho una favola di Gagliardi, Roberto, ma non lo so se tu ti trovi con questa favola. In effetti quando arrivavano i venezuelani, quando arrivavano i pellaresi in Venezuela, arrivarono al porto di La Guaira. Il porto di La Guaira è il porto più vicino alla capitale, Caracas, ed era un paesino di pescatori che ancora forse non aveva nemmeno l'aeroporto, ma aveva il porto, che era un porto sviluppato perché ovviamente era un porto commerciale, non c'era ancora il canale di Panama, quindi si doveva fare tutto il giro, che i cinesi arrivavano in Latino America, dovevano fare tutto il giro per la Patagonia e poi arrivare in Venezuela. Quindi era un punto di riferimento, perché arrivati in Venezuela, che c'era il nord del sud ed era aperto al Caribe, cioè i Caraibi inteso non se non che come zona commerciale, quindi Cuba, le Antille, Messico, Panama, il Sabato, e quindi tutto il Golfo del Messico, era già di suo, è come dire oggi, il Golfo Persico praticamente. Quindi arrivano prima alla Guaira, dalla Guaira salgono a Caracas arrivano alle prime borgate, quindi borgate che non erano ancora la Caracas degli anni 70-80 che conosciamo, erano zone che oggi sono diventate favela, zone sicuramente che non puoi dimenticare, e qualcuno se n'era già andato verso l'entroterra del Venezuela. In Venezuela si dice l'interior per dire che Caracas era la capitale e tutto il resto era bambagia, cioè la periferia, nemmeno periferia, era campagna, tranne qualche realtà vicino Maracaibo, perché là si stabilirono i primi pozzi petroliferi nel lago di Maracaibo, Golfo del Venezuela, trovarono le prime, gli americani trovarono i primi pozzi petroliferi più facili, e quindi là si sviluppa una realtà. Qualcuno prende e se ne va già all'interiore, quindi Valencia, Maracay, dice io agricolo era, agricolo voglio essere, e quindi inizia a... Le terre ovviamente costavano pochissimo, quindi ettari e ettari di terra. E praticamente questo Gagliardi si compra un'azienda ad oriente di Caracas, verso Boca del Chile, che è la zona là, dove qualche pelarese già era arrivato, no? Qualche passaro, qualche ruggiero già era arrivato da quelle zone. Gli americani, che conoscevano ormai, avevano già mappato, quando trovarono il primo bozzo di petrolifero negli anni 30, praticamente alla CIA maniera, si erano già partiti verso il Venezuela, avevano già mappato l'intero territorio venezuelano. Come? Loro arrivavano da Teti, dicevano che facevano parte del Ministero delle come si chiama, delle Industrie e Mine, e con scuse di volerti finanziare se la tua terra era prolifera nell'agricoltura, facevano dei pozzi. Dei pozzi sperimentali. Ta, ta, ta, ta. Questo Gagliardi arriva un giorno da qualche pellarese vicino a lui e dice: guarda, sono arrivati chi dirà un ministero di agriturismo in mina. Minas, per dire le mine. Miniere. Le miniere, no? Perché là c'erano le miniere. E hanno fatto un fosso dove tenere le pemmarole, ma c'è giù da andare, un gappato tutto nero in terra, capito? Hanno detto capotorno. Vado. Come hanno gappato? Che hanno gappato? Non hanno gappato. Pedrisi, che ti ripeto, già avevano una mentalità che andava oltre e dissero: cattate tutto che tocca di nero, tuo. Che erano zone baldie, erano zone che appartenivano a il caudillo della zona, ma che le teneva per pascio o cavallo. Cioè, chi tenia sta azienda e dice: tu che fai con questa azienda? Ah, mi faccio un giro lungo quando tutto lo birica. Tanto è vero che dopo sono rimaste queste cose, e c'era gente che si comprava gli elicotteri, gli italiani si sono comprati l'elicottero per farsi il giro, per vedere quanto era grande l'ettaro che avevano comprato. Quando dico ettaro, dico centinaia di ettari di terra, che a piedi non potevano farsela. Questo per dirti la ricchezza del mezzo. Praticamente Gagliardi aveva in senno due pozzi petroliferi che nemmeno lui sapeva che aveva. Quando compra tutta quest'area con i soldi prestati dei pellaresi e scoprono che ci sono i petroli, poi ovviamente arrivato a un certo punto gli hanno fatto una certa offerta, arrivato agli anni di Perimene viene espropriata quella terra, ma pagato a son di quattrini, praticamente una cosa che l'aveva pagata 1.000 lire gli viene fruttata tipo 1.000.000 di rapporto, di lire. 1.000 lire, 1.000.000 di lire, quindi 10.000 euro, 1.000.000, un milione di euro come riconoscimento per la resca che hanno fatto questo prestito. In effetti poi finanziò i lavori Piazza degli Eroi di Pellari. I paesi dell'entroterra sono stati costretti, visto lo spopolamento, ad applicare delle politiche per reintegrare la popolazione attraverso gli emigranti, l'accoglienza. Quindi nell'entroterra si è verificato, noi siamo, diciamo, nella sfortuna per loro, nella sfortuna per quello che sta capitando là, siamo stati fortunati perché questo fenomeno ce lo siamo ritrovati in casa senza fare niente. L'abbiamo vinto senza comprare la lotteria, nessun numero. Esatto. C'è da dire che però i paesi dovrebbero essere un po' più preparati verso questo. Questo dico, no, perché voglio dire, voi come associazione siete comunque tanto attivi, qua, e secondo me, io mo vi conosco per tutto quello che per parte, perché poi penso di non riuscire neanche a intercettare tutto quello che fate come associazione, però voi come associazione vi inserite fortemente in una mancanza di alcuni siamo servizi attivi, che dovrebbero siamo invece esserci realmente, cioè proprio fisicamente come istituzione dal 2007 a Moio della Civitella, in una prima fondazione di associazione che durò un anno e mezzo, si chiamava Associazione Araguanei, fu il primo tentativo istituzionale di associazione italo-venezolana. Il fatto è questo qua, si trovano 200 per circa 200 persone qua, sì, in zona. Di più. Voi avete, siete riusciti a attivare qua corsi di lingua, perché allora, chiaramente è una cosa che è fondamentale anche questa qua. Cioè il fatto che come associazione voi siete un osservatorio privilegiato di queste trasformazioni, perché forse arrivano più a voi che non alle istituzioni, perché si muovono non per colpa loro, ma cioè è difficile intercettare, perché magari poi anche no, lo vediamo, quando si parla di migranti si parla di una certa parte di migrazione. Sembra la paura di avvicinarsi all'istituzione in un primo momento. E quindi questo, però come associazione voi qua siete un punto di osservatorio, siete un osservatorio privilegiato, in più siete molto attivi, vi rendete anche conto di qual è la trasformazione del territorio, di quale può essere anche il danno che non accogliere queste persone in un modo dignitoso e rispettoso dell'individuo può comportare, perché poi se uno li vede come persone di passaggio è un impoverimento per un comune anche piccolo così. Voi che ne pensate per quello che vedete come associazione? Allora, praticamente sicuramente l'associazione ha un ruolo attivo da intermediario spesso tra quello che è l'attività svolta dalle istituzioni, perché come dicevi prima l'istituzione si è attivata per promuovere questi corsi di lingua e giustamente, come così tutte le altre informazioni che si ritengono utili e indispensabili per la comunità italo-venezuelana e per i venezuelani stessi, il nostro primo pensiero è quello di diffondere queste informazioni al fine di garantire e di agevolare questo disagio che spesso si intravede soprattutto nelle persone che arrivano e hanno queste iniziali difficoltà. Quindi sotto questo aspetto diciamo l'associazione si è attivata proprio per fare in modo di essere un volano, un filtro di informazione. Anche quelle più banali, sembra strano dirlo, ma spesso anche quelle più banali, per chi viene da un contesto diverso, chi è abituato a abitudini diverse, a metodologie diverse, può essere un'informazione utile. Quindi si è cercato in questo senso di fornire, tuttora adesso si cerca di fornire tutto quello che è il supporto e informazione. Noi cioè come associazione, Riccardo come presidente dell'associazione. Come associazione siamo attivi anche sui social, esatto, informando intanto su tutte le iniziative che il territorio ha a prescindere dalle istituzioni, cioè corsi di formazione, corsi di lingua italiana, possibilità di lavoro nel territorio, come appunto agevolazioni per gli extracomunitari o stranieri che arrivano adesso. Abbiamo uno sportello informativo attivato online, abbiamo già da qualche anno per quanto riguarda il Venezuela un collegamento diretto con Ali per il Venezuela, che è un'associazione onlus che fa riferimento a tutto ciò che ha a che vedere con l'aiuto umanitario per il discorso Venezuela SOS. Ti garantisco, visto che non so se fortunato o sfortunatamente opero più all'esterno del contesto territoriale che all'interno, l'attività che viene svolta dall'associazione viene vista di buon occhio a livello a livello territoriale sicuramente. Al di fuori del contesto territoriale. Perché siamo riconosciuti dalle altre istituzioni come associazione. Loro l'operato, anche se non viene detto, viene visto e viene comunque riconosciuto. Questa è la cosa più grande. Non parlo a livello di Campania, parlo a livello anche nazionale, perché i contatti con le altre forme di associazione, con le altre progetti in corso ci sono, e quindi c'è tanto da fare, tanto da sviluppare, però bisogna anche fare il conto, bisogna adeguarlo pure a questo progetto che dà. Io ringrazio entrambi, Roberto e Riccardo. Penso che no, Giulio, siamo noi che ti ringraziamo, però appunto come parola finale questo volevo un attimino farti capire. Come associazione italo-venezuelana Civitella non siamo aperti solo agli oriundi venezuelani, siamo aperti a qualsiasi realtà che è estranea a questa realtà e che arriva a questa realtà con gli stessi problemi di emigranti che possono avere i venezuelani. In questo caso i venezuelani sono la maggiore, perché ovviamente sono i rappresentanti di una realtà migratoria superiore, ma noi siamo aperti a qualsiasi altro tipo di realtà extracomunitaria che voglia appinguarsi a Pella del Moio, e possiamo offrire con la piattaforma che abbiamo di aiuto verso i venezuelani lo stesso aiuto a qualsiasi extracomunitario che si approccia ai confini di Moio e di Pella. Questo voglio che sia molto chiaro: non siamo una onlus ghettizzata o fine a un tipo di popolazione. Anche chi arriva da Vallo e si trasferisce assolutamente a Moio Pellare, come abbiamo fatto con te, come abbiamo fatto con te, in effetti, e viceversa. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.